Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 30 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che fa sempre da ponte tra carcere e città, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, canale 118. E io sono sempre Caterina alla conduzione di questo programma, saluto anche Antonella Cortese, sempre qui con me, buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E vi ricordiamo, oggi che è il 30, domani scade, finalmente finisce la nostra campagna crowdfunding su Ginger, ideaginger.it. Abbiamo fatto veramente una campagna bellissima, ci avete sostenuto in tantissimi, quindi avete ancora un giorno, magari se volete per donare, per dare il vostro contributo, anche minimo, lo trovate su www.ideaginger.it cercando il nostro progetto Eduradio e TV. Grazie a tutti. Partiamo con le notizie, carceri italiane, l'emergenza, detenuti più liberi ma meno sorveglianza, così esplodono aggressioni e violenze. Questo è il titolo della notizia sul Corriere della Sera, firma di due grandi firme, Milena Gabanelli e Virginia Piccolillo, perché è vero, notano le due giornaliste, nulla potrà mai giustificare le mattanze di Santa Maria Capua a Vetere, ma una spiegazione deve essere pure cercata e loro hanno cercato di farlo, perché è vero, al sovraffollamento si imputa tutto. Pensate che secondo il rapporto Space 2020 del Consiglio d'Europa, in Italia abbiamo la percentuale più alta di tutta l'Unione Europea. Su una disponibilità di più di 50.000 posti, i detenuti sono oltre 53.000. Con grandi differenze, tra l'altro, tra un carcere e l'altro. Alcuni semivuoti, altri in cui i detenuti sono pigiati come sardine. E infatti il Covid, unita all'impossibilità di distanziamento, ha fatto un po' salire la tensione, dobbiamo dirlo, ma il totale dei detenuti è piuttosto diminuito. Nel 2010 erano quasi 70.000. Allora perché i dati degli ultimi 6 anni sono peggiorati? C'è qualcosa in più? Sì, in effetti spiegano in questo articolo Gabanelli e Piccolillo, inizia tutto con una scelta di civiltà. Quindi fino al 2011 chi non aveva condanne per reati particolari passava 2 ore al giorno all'aria aperta e 2 con la cella aperta. A novembre dello stesso anno è passata una circolare che concedeva più fiducia ai più meritevoli. Quindi l'amministrazione penitenziaria ha istituito reparti dove le celle restavano aperte più a lungo per soggetti con scarsa pericolosità e assegnava a ogni detenuto un codice su criteri oggettivi. Si è venuto a creare una sorta di semaforo sostanzialmente per stabilire questi criteri. L'obiettivo era quello di elevare la responsabilità di ciascuno, cioè della serie più mi comporto bene, più ore d'aria avrò. Passò questa circolare per cercare di dare ore di aria ai detenuti più meritevoli, ma non è finita qui, perché nel 2015 avvenne un'altra svolta. Arrivò una nuova circolare che si occupava praticamente di spalancare le celle. Ai detenuti, eccetto quelli del 41 bis, venivano assegnati 2 soli regimi, cioè la custodia aperta e chiusa. Ma quella chiusa prevedeva un tempo minimo da trascorrere fuori dalle celle, mentre quella aperta fino a 14 ore. Inoltre disponeva che durante l'attività dei detenuti gli agenti fossero all'esterno delle sezioni senza la necessità di presidi all'interno, quindi in sostanza tutto ciò si traduceva in una sorta di autogestione. Un anno dopo queste scelte da parte dell'amministrazione penitenziaria, e qui veniamo alla tua domanda, Antonella, perché i numeri sono peggiorati, si sono rivelati i risultati di questa scelta. Le aggressioni tra i detenuti sono aumentate, 776 in più, quelle agli agenti penitenziari aumentate anche quelle, e le infrazioni disciplinari sempre più numerose fra minacce, violenze e resistenze. Tutto questo perché c'era una disparità, cioè meno agenti nella zona da controllare e disparità tra le ore d'aria assegnate a ciascun detenuto a seconda del reato. Le aggressioni contro la polizia penitenziaria, anche quelle sono aumentate tantissimo e anche tra i detenuti sono arrivate da 2.000 fino a 3.500 circa. Ma il dato più allarmante è quello sui reati spia del disagio, cioè i tentati suicidi sono passati da quasi 900 a più di 1.400, gli atti di autolesionismo anche quelli da 6.000 a 11.000, quindi anche solo a Santa Maria Capua Vetere, di cui se ne sente parlare tantissimo in queste ultime settimane, nell'ultimo anno e mezzo sono stati registrati quasi 300 casi. Questa è una situazione in cui quindi stanno male non solo i detenuti ma anche gli agenti, sottodimensionati, non sempre adeguatamente formati e che faticano a mantenere chiaramente l'ordine. Non da ultimo però, Caterina, resta il problema del lavoro. Eh certo, assolutamente, perché le celle aperte si inseriscono a tutto tondo nell'organizzazione di attività lavorative che il carcere deve garantire. Il problema è che non ci sono fondi sufficienti per retribuire il lavoro del carcerato e non basta sbandierare, scrivono le due giornaliste, le buone esperienze di Bollate, di Padova e di altre piccole realtà, perché il detenuto non può scegliere dove trascorrere la sua pena, come sapete. Quindi il risultato è che purtroppo quasi il 70% di chi esce dal carcere poi ci ritorna, e questa è la famosa recidiva. Chiudiamo con la musica, Ligabue, Niente paura, e ci rivediamo tra poco. Tra pochissimo. Ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare, a parte che i sogni passano se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. E Antonella, l'animale della settimana, come sapete, è sempre il venerdì, e chi è questa volta? È Caterina, un animale che ti piace tantissimo e che piace soprattutto ai bambini, è il panda. E dopo un serio tracollo causato dalla distruzione delle foreste di bambù e dal progressivo isolamento della popolazione rimasta, il panda, per fortuna, ha riguadagnato terreno e oggi si contano quasi 2.000 individui in natura. Questo è un bellissimo risultato. Il merito ovviamente va alle campagne del WWF e alle pressioni soprattutto esercitate sulla Cina, l'unico luogo dove si può incontrare in natura questo strano orso. Ma chi è il panda gigante? Noi lo conosciamo perché l'abbiamo visto in tantissimi cartoni animati, per esempio. Allora, prima di tutto, diciamo come è fatto fisicamente, è dotato di un tratto intestinale tipico dei carnivori, però come sapete è praticamente vegetariano, quasi esclusivamente essere vegetariano. Per oltre il 99%, infatti, mangia il bambù. E non è in grado di sopravvivere dove non cresce il bambù. Questo è un grande problema, perché comunque quando diminuisce l'habitat, quando le foreste vengono utilizzate dagli esseri umani anche per altri motivi, economici soprattutto, manca proprio il suo foraggiamento. Comunque, per saziarsi ne deve consumare una grande quantità, dai 9 ai 18 kg al giorno, perché il bambù è povero di sostanze nutritive sostanzialmente. Nel procacciarsi il cibo, il panda è favorito da una sua particolarità anatomica, cioè il palmo della zampa anteriore è fornito di un pollice, praticamente a sei dita, è come se avesse un pollice opponibile, che gli permette di afferrare meglio il bambù. È un vero vegetariano? Non del tutto. Non del tutto perché occasionalmente si ciba anche di piccoli mammiferi che riesce a catturare. Comunque, come avete capito, il panda ha bisogno di una foresta intatta e anche la popolazione locale però dipende dalla foresta, che rappresenta una fonte di reddito e fornisce legna da ardere con cui cucinare e riscaldare le case. E questo è stato un piccolo problema che però, insomma, stanno cercando di affrontare con delle soluzioni finalizzate allo sfruttamento sostenibile del legno, che significa fare dei progetti e finanziare, per esempio, dei forni o delle stufe più ecologiche per poter consumare meno legna. Ma Antonella, ci hai parlato del panda gigante, raccontaci un po' di fisionomia di questo panda, come è fatto? Allora, il panda gigante è piccolissimo quando nasce, pensate che sono grandi quanto un criceto, pesano dagli 80 ai 200 grammi, sono di colore rosa e totalmente privi di pelo. Solo dalla terza settimana di vita sono coperti dal classico manto bianco e nero che noi conosciamo benissimo. Il loro peso può arrivare fino a 150 kg, la vita media va dai 15 ai 20 anni in natura oppure fino ai 30 anni in cattività. E la riproduzione avviene ogni due anni, infatti si accoppiano in primavera e nascono in tarda estate. Il panda ha una buona memoria geografica, ha un udito e un olfatto eccezionali, ma non ci vede benissimo, o meglio, ci vede bene di notte, perché hanno delle pupille come quelle dei gatti. Poi parliamo dei denti, ecco, per mangiare tutta quel bambù devono avere dei denti forti e belli, numerosi, infatti hanno un numero di denti pari a 7 volte quelli dell'essere umano e sono anche molto più ampi. Questi, insieme a una mascella bella robusta, permettono di triturare e masticare meglio. Il palmo del panda gigante, come vi dicevo, ha 5 dita e un pollice, che non è altro che un osso più grande nella zampa, che gli aiuta ad avere una migliore presa sul bambù e anche per arrampicarsi sugli alberi, ovviamente. Le loro attività preferite quali sono? Caterina, diciamo che il panda sembrerebbe un po' uno sfaticato perché perde un sacco di tempo, metà della sua giornata a mangiare e l'altra metà a dormire. Comunque, negli ultimi anni, e questo è molto importante, è diventato simbolo della Cina, tesoro nazionale, a seguito di un'importante campagna governativa per proteggerne gli esemplari rimasti. E questo ci fa tanto piacere perché dal 2016, grazie agli interventi del governo e grazie ai centri di ricerca e allevamento, il panda non è più una specie ad alto rischio di estinzione. E proprio per rimanere in Cina, vi farei ascoltare una canzone, si chiama Chinese Dragon. Grazie e ascoltatela, è bellissima. Liberi Dentro ed Uradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia Romagna. Eduradio è un pilastro di Radio Città Fucico. Uomini e storie, la rubrica della redazione Eduradio di Parma, per parlare di donne, uomini, le loro storie. Gruppi di Vangelo, pensieri, parole, immagini, racconti ed emozioni a più voce, canzoni, per capire e vivere il Vangelo di Gesù. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Eduradio e TV. Oggi abbiamo come ospite il nostro garante comunale per i diritti delle persone prive della libertà personale, Antonio Iagnello. Buongiorno. Buongiorno Caterina. Allora, il tema di oggi è l'inaugurazione, che è stata il 9 luglio scorso, del nido all'interno della sezione femminile della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Un'apertura su cui però ci sono state anche alcune criticità espresse, lo ricordiamo, le avevo già lette anche in rassegna stampa, in particolare dal Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, il SINAPPE, che aveva espresso criticità per esempio sulla riduzione poi degli spazi all'interno della casa circondariale dopo l'apertura di questo spazio nido e anche per la struttura che è già sofferente diciamo strutturalmente da anni. Però tuttavia il sindacato in una nota ha anche scritto che nessun bambino dovrebbe andare in carcere ma arrivano comunque, quindi è giusto allora accoglierli in maniera adeguata. Io allora volevo chiederle qual è il significato di questa scelta considerata anche la nostra realtà locale bolognese. Beh, innanzitutto condivido assolutamente la premessa che è stata fatta, ovvero il fatto che tutta la società civile ritenga lo spazio detentivo come quanto di più inadeguato possa esistere per lo sviluppo psicofisico del bambino. Fatto sta che comunque in tempi non sospetti, diciamo, quando si è iniziato a parlare dell'apertura di questa sezione nido codificata, avevo rappresentato agli attori istituzionali competenti le gravi perplessità con riferimento all'apertura appunto di questa sezione, soprattutto relativamente al fatto che seppur a distanza si verrà a, diciamo così, a verificare questa coesistenza con l'articolazione per la tutela della salute mentale. Detto questo, però, possiamo dare anche una chiave di lettura pragmatica alla scelta dell'amministrazione penitenziaria, ovvero gli ambienti che sono stati organizzati sicuramente saranno più a misura di bambino, per quanto possa essere possibile, no? Che un carcere possa avere una dimensione a misura di bambino. E soprattutto si verrà a configurare quella separazione effettiva dalla parte restante della popolazione detenuta che nei fatti non si verificava, ovvero prima dell'apertura della sezione nido le madri con i figli a seguito erano collocate in celle ad hoc con allestimento del lettino per i bambini, però rimanevano nelle sezioni ordinarie detentive. Adesso avranno degli spazi dedicati. Sicuramente la normativa prevede allo Stato che a determinate condizioni e sussistendo determinati requisiti i bambini purtroppo possano ancora transitare in carcere. Il dato, adesso vi posso dare alcuni dati, seppur l'andamento sia stato fluttuante, sicuramente negli ultimi anni la presenza dei bambini, è vero che per un periodo limitato di tempo, ma con riferimento alla possibilità, no, di accedere a misure all'esterno, si è verificata. Abbiamo avuto nel 2019 15 bambini con 13 madri e nel 2020 11 bambini con 10 madri. Ad oggi, fino a qualche settimana fa, c'era presente ancora un bambino, quindi il tema c'è assolutamente. La ringrazio Garante e grazie anche per questo dato che ci ha riportato. Ci ritorniamo tra poco dopo la musica, sempre sulle impressioni dopo l'inaugurazione. A tra poco. Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo. vedere il cielo come appare davvero. E sussurrarti piano all'orecchio. Don't worry, don't worry. Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato. Un ragazzo che guarda i gol della Serie B. Per me la speranza c'è ancora. Per me la speranza è questa. Sono gli arrivi in aeroporto. I pianti che si fanno di rotto. Confusi tra tristezza e gioia. Confusi tra tristezza e gioia. Don't worry. Don't worry, don't worry. Guarda quanti bimbi a giocare giù in piazza. Con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incazza. Ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te, cantando a squarciagola una canzone d'amore, d'amore. Che ti accompagni lungo tutto il viaggio, quando sarà finito anche il coraggio. Che faccia luce quando è sera, per chi c'è stato e per chi non c'era. Per chi è stato sincero, per chi ci ha sempre creduto. Per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto. Don't worry. Don't worry, don't worry. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Duradio. Abbiamo come ospite il garante comunale Antonio Iagnello e stiamo affrontando il tema dell'apertura dello spazio nido all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Lei, garante, era presente non solo all'inaugurazione, ma fin dall'inizio della vicenda, della richiesta della sezione nido, l'ha seguita tutta. Che impressione ne ha tratto anche rispetto a questi spazi che lei ha visto? Mi ricollego al dato di prima. Ho dato un dato che ricomprendeva le presenze dei bambini all'interno del distretto regionale, no? Ho parlato di 15 bambini nel 2019 e 11 bambini nel 2020. Su Bologna nel 2019 sono transitati 9 bambini e 7 madri, e nel 2020 7 bambini con 6 madri. Gli altri istituti interessati sono il carcere di Forlì e la casa circondariale di Bologna. Io ero presente all'inaugurazione e devo riconoscere che l'amministrazione penitenziaria ha davvero fatto dei grandi sforzi, e anche il risultato ottenuto è piuttosto adeguato, con riferimento appunto, come dicevamo prima, a creare degli ambienti che fossero a misura di bambino per quanto possibile. E quindi abbiamo 2 camere detentive per le madri, e con bagno all'interno, una cucina come se fosse la cucina di una casa. L'ispirazione, così come ha detto nel corso dell'inaugurazione, è quella di provare a creare degli ambienti ispirati a modelli familiari, come ha detto la provveditrice, la dottoressa Manzelli. E poi abbiamo un ampio giardino e abbiamo anche una ludoteca, diciamo così, corredata di tutto punto. Ora, il tema è che la normativa di riferimento è vero che consente ancora, purtroppo, la possibilità che i bambini possano transitare dal contesto detentivo, però è anche vero che permette, laddove possibile, che vengano praticate soluzioni istituzionali orientate, diciamo così, alla costituzione di case famiglia protetta, all'istituzione di case famiglia protetta, che naturalmente costituzione che deve avvenire attraverso un impulso anche da parte degli enti locali, del territorio, che si possono convenzionare con il Ministero della Giustizia. Quindi in questa ottica qui, in questi anni, dobbiamo riconoscere, constatare, no? Dalla data del 2013, no? Quando il decreto della ministra Severino ha fissato i requisiti strutturali delle case famiglia protette, dobbiamo riconoscere che queste soluzioni non siano state praticate. Però la novità è che con la legge di bilancio 2021, per un periodo triennale, sono stati stanziati per ogni anno 1,5 milioni di euro, proprio finalizzati all'inserimento delle madri con bimbi a seguito, l'inserimento all'interno di case famiglia protetta o comunque di comunità di accoglienza. Quindi l'auspicio è che nel momento in cui verranno ripartite queste risorse, davvero il forte auspicio che è che gli enti locali possano lavorare per l'individuazione di queste strutture, magari anche optando per la valorizzazione, diciamo così, di quelle strutture del privato sociale che già sono operative con riferimento all'accoglienza dei bambini in difficoltà e che quindi eventualmente potrebbero anche offrire e riservare dei posti per le madri di bambini. La ringrazio Garante, ci uniamo come Duradio a questo auspicio per il futuro e un altro brano musicale e ci rivediamo tra poco per i saluti di fine puntata. Ho messo via gli rimpiattini, dicono non ho l'età, se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Via, ho illusioni che prima o poi basta così, ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì, ho messo via un po' di consigli, dico no, è facile, li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me, mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Ultima puntata del venerdì, quindi ultimi saluti, sempre prima di annunciare le nostre rubriche che saranno oggi che è venerdì Islam, religione e civiltà e a seguire il reportage che abbiamo fatto io e Antonella dall'Isola d'Elba intervistando i volontari e le volontarie, gli insegnanti che lavorano all'interno dell'istituto di Porto Azzurro. Ma siamo presenti anche, come sapete, il sabato e la domenica, quindi il sabato c'è il rinnovamento dello spirito, a seguire un'intervista presso l'associazione Terra e Sole e al termine la solita rubrica di teatro con il Teatro del Pratello. La domenica abbiamo invece il CPA di Bologna con School on Air e a seguire il FOMAL con una nuova ricetta per la rubrica Chef al fornelletto. Scriveteci. Redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Un saluto sempre da me e da Antonella Cortese e dal nostro Enea Flacco al montaggio di queste puntate. Ciao e ci vediamo lunedì prossimo. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.